Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono nella bellissima città di Urbino, la capitale del Montefeltro, segnata dalla città in forma di palazzo, cioè dal grande castello palazzo che Federico da Montefeltro volle costruire nel centro cittadino. Questo luogo è uno dei grandi edifici del primo Rinascimento italiano, venne realizzato da un grande architetto, Luciano Laurana, ma noi entrando dobbiamo solamente immaginare com'era l'incredibile arredo di questo palazzo, che oggi è immenso, ci appare più o meno vuoto, anche se ci sono naturalmente i capolavori della Galleria Nazionale delle Marche, ad esempio la Flagellazione di Piero della Francesca e altri capolavori di Raffaello. Però nulla a confronto di quello che era prima la decorazione. Il palazzo era ricchissimo, al pian terreno per esempio c'era una biblioteca meravigliosa fatta tutta di codici miniati. Il duca assunse un intellettuale, Vespasiano da Bisticci, che controllasse che nella sua biblioteca non entrassero libri a stampa. Siamo nel periodo dell'invenzione della stampa, lui vuole solo libri manoscritti e miniati, e poi naturalmente le collezioni dei dipinti e dei mobili. Dove sono finite queste collezioni? Per fortuna non molto lontane. Per una ragione di matrimonio, gli ultimi signori di Urbino, i della Rovere, si sposarono con i Medici, ed ecco che il grande tesoro di Urbino, libri e dipinti, presero la via di Firenze, per cui oggi agli Uffizi naturalmente siamo abbastanza ignari, ma ogni tanto ci imbattiamo, anzi molto spesso ci imbattiamo nei tesori che arredavano il Palazzo Ducale di Urbino.